Dovremmo essere in collegamento con Napoli. Non so se ci senti. Ok, sì, buongiorno. Sì. Sappiamo, insomma, della, la volontà di questa corrispondenza era per raccontare quanto sta avvenendo dal punto di vista repressivo, in qualche modo, in questo momento, rispetto alla manifestazione, se ricordo male, del 6 aprile contro la visita di Renzi a Bagnoli. Esattamente. Sì, il vabbè, parliamo di, l'abbiamo scritto già in qualche comunicato, è una cronaca di denunce annunciate, nel senso che aspettavamo che prima o poi arrivasse comunque una risposta repressiva per una giornata di lotta che comunque è stata molto molto significativa per più punti di vista. Vabbè, parto diciamo da un dato più tecnico-legale, sono arrivate denunce a 5 compagni comunque di varie strutture di Napoli, cioè i compagni dello 081, noi come mensa pure abbiamo avuto un compagno denunciato, e poi c'è stato un denunciato dei compagni del Scacco Matto per accuse che vanno da manifestazione non autorizzata a concorso in lesioni aggravate e resistenza. Quindi comunque capi di imputazione ovviamente connessi a quella che è stata la resistenza che si è sviluppata in piazza in quella giornata, dove, come appunto accennavi tu, era previsto l'arrivo di Renzi per firmare una serie di accordi per sbloccare fondi nel processo di bonifica ormai trentennale che dovrebbe investire appunto l'area dell'ex area del Sider e tutti quei territori contaminati dalla ormai decennale dismissione industriale. In quell'occasione comunque Renzi arrivò nell'area dove si trova la sede del Mattino, quindi vicino al lungomare, e il corteo provò comunque, nonostante i ripetuti divieti e limitazioni della questura, arrivare proprio sotto al Mattino per contestare il Premier, e proprio all'approssimarsi della sede del Mattino ci furono le cariche della polizia e in quella piazza si mise in campo diciamo comunque un dispositivo da parte nostra di resistenza molto forte, che noi rivendichiamo non solo per esprimere vicinanza ai compagni che sono stati denunciati, ma per ribadire che Napoli non accetta né il governo Renzi né chiunque voglia comunque portare qui e applicare le strategie lacrime e sangue dettate dalla BCE e dall'Unione Europea. Dicevamo che appunto sono denunce annunciate perché comunque la questura e i media di regime hanno avuto una fortissima difficoltà a destrutturare quello che era stato invece un messaggio molto forte lanciato in quella giornata, cioè una città che non solo resiste alle cariche della polizia, ma che si stringe in una maniera ideale attorno a chi in quella giornata, nonostante noi avessimo saputo soltanto un poche ore prima che sarebbe arrivato Renzi, comunque ha deciso di scendere in piazza. Eravamo quasi 3.000 persone per un corteo durante la settimana, non è assolutamente poco, e soprattutto il corteo si è ingrossato man mano che passavamo per i quartieri popolari, quindi c'è stata una risposta molto forte nella giornata del corteo. Nelle giornate successive alcune pagine locali hanno dovuto anche chiudere la possibilità alla gente di commentare perché si esprimeva una fortissima solidarietà ai manifestanti, e quindi comunque questo tipo di situazione di denuncia fa un po' di ritorsione, cioè alla fine ovviamente non potevano da parte loro esimersi, tra virgolette, a mandare delle denunce, l'hanno fatto molto lontano da quell'accadimento e comunque con un tipo di operazione giudiziaria che sa molto di ritorsione, anche e soprattutto in vista di mobilitazioni che si annunciano calde per un autunno che vedrà la questione della riforma costituzionale, un probabile arrivo di Renzi nuovamente, perché Renzi ha detto che sarà di nuovo in autunno a Napoli, e quindi la questura ha cercato di lanciare un monito che chiaramente sarà disatteso da chi ogni giorno prova nei limiti delle contraddizioni a fare un percorso contro il governo Renzi e l'Unione Europea. Tra l'altro Renzi ha, come dire, su Bagnoli ha avuto un'attenzione particolare, nel senso che tutto lo sblocco dell'area ex Ital Sider, in qualche modo Renzi l'ha, insomma, abbiamo affrontato anche più volte dentro questa trasmissione quanta speculazione ci sia dentro quella situazione, ma Renzi dal punto di vista politico è un punto che si rivendica in maniera molto forte. Questo non mi sembra che in quei territori gli stia dando grandi frutti, perché poi a Napoli, ma anche lo stesso comune di Bagnoli, se non mi ricordo male, ha comunque preso una scoppola elettorale fortissima, insomma, perché poi è quello che poi gli interessa, ecco. Sì, proprio il mese di maggio è stato fatale al nostro caro Matteo, perché la manifestazione del primo maggio, che era, è venuta a pochi giorni dal 6 aprile, ma anche a pochissimi giorni dall'arrivo di Renzi, un nuovo arrivo di Renzi, in cui Renzi aveva pubblicamente, ci ricordiamo, il Renzi del Life, aveva comunque comunicato a tutta Italia, appoggiato chiaramente da tutti i media di regime, la volontà di bonificare, aveva fatto vedere il Coroglio e altre spiagge bonificate col mare cristallino, cioè aveva giocato molto su quel che è un immaginario e anche, bisogna dirlo, un'esigenza reale, perché veramente la gente continua a morire di tumore e di malattie legate alla dismissione industriale. Ovviamente c'è una fortissima attesa e anche proprio volontà che quelle zone siano bonificate, quindi lui ha giocato su questo fatto. Però ovviamente è stata molto molto grande la capacità dei compagni, che a partire dall'Assemblea Popolare di Bagnoli Libera ha destrutturato un po' le bugie che lui sta raccontando e che ha montato nel corso dei tempi. E appunto, come dicevi tu, al di là della manifestazione del primo maggio, che è stata popolare, partecipatissima al quartiere di Bagnoli, poi il PD non ha raccolto assolutamente, non c'è stato nessun feedback positivo anche nelle urne elettorali, perché è stato uno dei quartieri dove maggiore è stata la sconfitta del Partito Democratico, nonostante ci fosse comunque una base anche di vecchi operai, magari legati al PC, che in altre zone della città invece hanno dato un riscontro positivo al partito di governo, mentre a Bagnoli, dove si è fatto un lavoro molto forte da parte dei comitati popolari e dell'Assemblea Popolare, dei compagni di Iskra, si è fatto un lavoro molto molto forte in questo senso, anche di destrutturazione di quello che è il messaggio politico di Renzi, invece egli, appunto, Renzi non ha raccolto nulla neanche in termini di elettorato. E quindi anche per questo noi pensiamo che ci sia passata questa operazione di tipo giudiziario, all'approssimarsi sicuramente del ballottaggio, ma appunto come monito per dire: noi ci siamo, vi continueremo a reprimere se comunque mettete in campo un dispositivo come conflittuale come quello del 6 aprile, ma soprattutto continuativo e quotidiano come quello che si sta venendo comunque a sviluppare in varie parti della città contro appunto le politiche dell'Unione Europea impersonificate in questa fase storica da Renzi, insomma. Va bene, senti, noi ti ringraziamo. Allora, chiaramente va la nostra solidarietà ai compagni colpiti dalle denunce e in generale al movimento di lotta di Napoli, insomma. Ti ringraziamo e ci sentiamo presto. Aggiungo una cosa velocissima. Noi oggi stiamo appena tornando abbiamo fatto una conferenza stampa e un presidio nei pressi, diciamo, nei luoghi dove siamo avuti gli scontri il 6 aprile, però mo ci vuole proprio a sintomo di quello che è la fase attuale, anche proprio di repressione e di mancanza di possibilità di esprimere, al di là, diciamo, delle radio come le vostre, dei compagni che mettono a disposizione le proprie conoscenze per poter socializzare quello che succede, non si è presentato nessun giornalista di nessuna grossa testata, che siano il Mattino, Repubblica, nonostante ci trovassimo a pochi passi dalle varie testate. E quindi questo, diciamo, dà un po' il senso di quella che è l'area attuale, no? Quindi noi una cosa per dire, sia quello che è stato stamattina, cioè questa conferenza stampa, sia per ringraziare voi, gli altri compagni che fanno un lavoro preziosissimo, anche una cassa di risonanza enorme per le lotte, senza cui magari non riusciremo a uscire dai confini metropolitani o cittadini che si tratta, insomma. Quindi grazie a voi e un abbraccio.